Ore 7 spaccate, 7 del mattino. Ci tengo a ricordarlo ogni volta, mica che qualcuno pensasse che sono le 7 di sera. C'è l'Ariele qui negli studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20124 Milano. Dall'altra parte del vetro il nostro abile regista Spadino, pronto ad aiutarci in questa 13ª puntata. Mercoledì 19 di settembre, il programma si chiama Pane, Burro e Rock and Roll, a servirvelo ci siamo noi, c'è Roberto Fricantoni e giorno dopo giorno sempre di più là fuori vi fate sentire via SMS. Mi arriva uno adesso, primo? No? No, non sei il primo, ce n'erano già altri. Da subito, pronti, ogni giorno di più ragazzi. Facciamo il culo a tutti, qui da Rock FM, sigla! Oh, sono gasato oggi. Sto prendendo il ritmo, ragazzi. Buona giornata là fuori! Via! Pane, burro e rock and roll. Traru, tratu, tragu, cao. La tua colazione roll. Sveglia, sveglia! Pane, burro e rock and roll. Guardate che fa freddo fuori oggi, eh? Importante, l'Ariele ve lo ricorda. Vestitevi bene. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Yo, benvenuti su Rock. Yo, hai visto come mi viene bene. Io credo di avere un futuro nel rap. Se solo non adorassi così tanto il rock and roll, Spadino, guarda, sono certo che avrei avuto una carriera sicura nel rap. Anche perché il rap italiano, adesso diciamocelo, senza offendiamo pure. Ce l'avrei sicuramente fatta. Sapete perché stamattina sono particolarmente pimpante? Sapete perché quest'oggi, a inizio trasmissione, poi ci si risente tra mezz'ora, che sono qua collassato sul mixer? Sì, perché funziona. In questi, da lunedì, stiamo utilizzando Good Morning Starshine, una canzone tratta dalla colonna sonora di Air. Solitamente la utilizziamo per svegliare gli amici delle 8. Però stamattina ce l'ho in testa da quando ho aperto gli occhi, quindi voglio farla sentire anche a voi delle 7, che magari poi iniziate a lavorare o andate a dormire, quindi ve la siete persa e non vedo perché non far godere anche a voi di questo miracolo. Good morning, Starshine! Oh, oggi cantavo questa, a voi non è capitato? Solo a me succede. Good morning, Starshine! The earth says hello. Hello. You twinkle above us, we twinkle below. Benvenuti a Broadway. Good morning, sunshine. You lead us alone. My love and me as we sing. 7:03 minuti primi, si è spento il lampione. Early morning singing song, good morning sunshine. The earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Tram, tram, tram, tram, tram, tram. Good morning sunshine, you lead us along. My love and me as we sing. song. Un inizio musical, cosa c'è di meglio? Doppia sigla oggi, ma che ce frega, ma che ce importa? Benvenuti a Pane, Burro, Rock and Roll, questo è solo l'inizio. Oh, secondo me è fondamentale questa canzone. Oggi mi ha svegliato bene, quindi spero possa servire anche a voi là fuori, è il nostro compito. Intanto mentre andava la canzone annunciavo, si è spento il lampione, quello che ho qui di fronte alla finestra di Rock FM. Vi ricordo che vi parliamo da Milano, una metropoli che ha dei lampioni crepuscolari. Me lo sono scritto sulla scaletta di oggi perché non volevo dimenticarmela questa cosa che abbiamo scoperto ieri, il lampione crepuscolare. Oh, non so se anche voi delle altre città avete la fortuna di averceli. A Gallarate, il mio paese, la mia città, non credo ci siano. Non ho mai controllato, anche perché abbandono la città quando il sole non è ancora su e ci torno quando il sole è già giù. Quindi non ho il piacere di vedere che i lampioni di Gallarate si spengano, ma mi informerò. Intanto io andrei... no, guarda qua con cosa iniziamo... Pane, Burro e Rock and Roll inizia in questo istante, come giusto che sia, roccheggiando giù duro. Basta queste cose da Forcetti di Broadway, andiamo con robe vere, Tamaschi, AC/DC, biker là fuori. Lo so che Good Morning Starshine piace un po' anche a voi, però so che preferite questa Dirty Deeds, Damn Dirt Cheap. Quest'oggi si inizia così. I know it's Thunder Jeep. secchi, essenziali, sempre uguali, come solo loro sanno fare. Ed è per questo che li adoriamo, AC/DC. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. 7-10 minuti primi. Sarà una dura giornata, ragazzi, ma l'affronteremo insieme, se lo vorrete, se resterete con noi sulle frequenze di Rock FM. Tra pochissimo i primi appuntamenti anche con Roberto Fricantoni. Sì, vi do il numero di SMS, anche se sembra inutile, visto che già vi state scagliando contro di noi al 335-100-7777. Un saluto agli amici che scendono il cane, eccolo lì, bello preciso. Sempre diversi quelli che scendono il cane qua davanti, sia padroni che cani, dico, a ruota, non hanno un orario preciso. Questa cosa è un po' strana. Sarà una puntata difficile perché, insomma, abbiamo ripreso il ritmo e iniziamo a scaldare i motori, come si dice in termine tecnico. Chiederei gentilmente a voi là fuori di tentare di capire il nostro micromondo, il nostro microcosmo nel quale viviamo. Microcosmo fatto di certezze, di piccole certezze, di piccole scoperte che giorno per giorno facciamo con voi là fuori. Mi riferisco a un SMS firmato Igno and the Rants. Il maestro Fricca ha apprezzato tantissimo questa firma, col quale messaggio l'amico dice: ma guarda che i lampioni crepuscolari sono ovunque, chi li spegne se no? Il sindaco come il prete, i ceri in chiesa. Allora, amico Igno and the Rants, se vuoi così tarpare il mio slancio patriottico di questa mattina nei confronti della città che mi ospita, dove pensavo esistesse, a me sta cosa dei lampioni crepuscolari mi ha lasciato basitissimo. Dite che ce l'hanno anche tutte le altre città, ma altro problema ce l'ho alla casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. Allora, il messaggio è chiaro: Carlo, io sono in squadra con te. Carlo è un amico della tabaccheria qua vicino alla frequenze, qua vicino alla sede di Rock FM, col quale ieri avevo iniziato questa nostra nuova crociata nei confronti del lotto, regalando le prime terzine della storia di Rock FM. Lui questa mattina, prestissimo, mi scrive una mail e prima di tutto mi fa sapere che le terzine che abbiamo giocato manco ne è uscita una, e va bene, questo è un altro problema. In compenso mi dice: mi hanno fatto un cazziatone mega molte persone, tra le quali anche mia moglie, sostenendo che il lotto non è rock. Non vorrei, dice Carlo, aver creato troppe tensioni. Grazie a tutti, ciao. Carlo, guarda, stai in una botte di ferro. A, B, sono in squadra con te. C, non hai creato tensioni. ABC. D, se il lotto è rock o non è rock lo decidiamo noi. Quindi guarda, stai proprio tranquillo. Tra l'altro ieri ti dicevo che anche a me via SMS in molti hanno commentato questa presa di posizione di Pane, Burro e Rock and Roll nei riguardi del lotto. Però tra molti messaggi, insomma, negativi ce n'erano anche parecchi che apprezzavano. Quindi Carlo, siamo in squadra insieme, stai tranquillo. Qui a Pane, Burro e Rock and Roll si può fare veramente di tutto. Tra l'altro, se c'è qualche nonnina all'ascolto che vuol dare la ricetta rock, noi siamo in cerca di buone idee qui nella redazione. Quindi fatevi avanti, non abbiate paura. It's getting near dawn. When lights close the tire. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting. It's the morning, just we two. regista Spadino è stato salutato, i nostri radioascoltatori pure. Che mi manca se non augurare una splendida giornata al maestro Roberto Fricantoni, nostro rocker di riferimento. Buondì! Buongiorno, ricambio i saluti, buon 19 settembre a tutti e ricordiamo come al solito in positivo che può essere quest'oggi una splendida giornata. Forse anche rileggendo gli accadimenti della storia, quello che qui a Pane Burro Rock and Roll si chiama almanacco del giorno che fu. Esatto, per imparare da ciò che è successo, per fare tesoro dell'esperienza. Da cosa comincia in questo 19 di settembre? Guardi, DJ Ariel, sì? Parto da lontanissimo. Da dove parte? Pensi, era? Parto dalla seconda metà del Settecento, era esattamente il 1783. Il 19 settembre che accadde? Glielo dico, i fratelli Montgolfier. Ma dai. Presentarono l'aerostato, mi esce sempre un po' di Mike. No, non l'esca, Mike, la prego. L'aerostato detto ad aria calda. Ah, sì, che fa andar su. Esatto. Leggo, ecco, mi viene detto, mi sì, fanno cenno, che si regia. Dice, dalla regia si dice aerostato, aerostato. Che venne innalzato alla presenza di Re Luigi X51. No, Luigi XVI, XVI, XVI. Fate di sì, tutto per mettermi non in bocca. Gara. Ma fu innalzato di fronte al Re Luigi. Dove? Nei giardini di Versailles. Ah, quindi è il compleanno della Mongolfiera, perché poi esatto, i fratelli Mongolfier la chiamarono Mongolfiera. Esatto, l'aerostato, bravi, infatti, o aerostato, come mi fate cenno. Guarda, io glisserei. Volevo solo dire che prese il nome di Mongolfiera, da aerostato a Mongolfiera il passo fu breve. Io passerei alla serie Buone idee contro il precariato, legato a una notizia del 19 settembre del 1900. Infatti, amici, amiche, se avete qualche problema di lavoro, fate come Butch Cassidy e Sundance Kid, anzi non fate come loro. Comunque loro commisero la loro prima rapina insieme, il grande Billy the Kid e Butch Cassidy. Che imprese fenomenali. Non un'impresa fenomenale invece quella legata al 1959, laddove il 19 settembre sì, venne negato, ma guarda un po', il visto ed sì, il permesso di visitare Disneyland sì, a Nikita Khrushchev. Ma guarda che sono cattivi sti americani. Nikita voleva solo andare a stringere la mano a Topolino. Questo è stato antidemocratico. Ma decisamente Zio Sam, da questa da te proprio non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo. Fate vedere a Nikita Khrushchev Disneyland. Esatto, rimediate in qualche modo. Ci sarà ancora Nikita Khrushchev? Non so bene, forse no. Forse è andato e se n'è andato. Salutiamo anche lui, Nikita. Anche lui come Pavarotti, non so se sapete che è morto. Sì, settimana scorsa. Si è saputo. Sì, sì, sì, sì, è arrivata notizia. È arrivata notizia, sì. Un saluto anche a Nikita. No hell below us. Ladies and gentlemen, John Lennon, Imagine, pane, burro, rock and roll, ed è subito amore. 7:24 minuti primi di un mercoledì 19 di settembre che andremo pianin pianeta a costruire insieme. Ciao amico Oscar, la festa, scusi, ero preso dalla base, la festa del 30 settembre è a Cascina Mollue, qui a Milano. Sì, la festa dove presenteremo ufficialmente la patente davvero rocker. Domenica sera un altro scrive: come faccio a venire domenica 30 se poi lunedì alle 6 devo essere pronto a lavorare? Ehi amico, anche noi abbiamo lo stesso problema, eh? E questo è il bello. È per questo che è una festa rock, perché la facciamo di domenica sera. Così lunedì tutti belli rincoglioniti si riprende la settimana. È terribilmente rock, no? Va bene, proseguiamo con la musica che ci salva sempre. È il nostro rigore qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Si chiamano Rush. È con loro che prosegue il nostro viaggio musicale. Closer to the heart. Hai capito? Più vicini al cuore. Che teneri. Tenerrimi. Ho detto bene, Frick. Tenerrimi. Sì. To start to mold a new reality closer to the heart, closer to the heart. The blacksmith and the artist reflected in their art, they forged their creativity closer to the heart. Yes, closer to the heart. Philosophers and plowmen, each must know his part to sow a new mentality closer to the heart. Yes, closer to the heart. Yeah. Oh. Ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal tartaro. Pane, burro e rock and roll. La forza delle gengive, la vita dei denti.